Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa. Oh, che belle queste interruzioni, così ci piacciono. Vabbè, un'interruzione a tradimento, rientriamo in voce e diamo il benvenuto a Gregorio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Gregorio Piccin, che è un compagno, insomma, che abbiamo sentito diverse volte qui dai microfoni della radio. E niente, mi faceva piacere approfondire un articolo che è uscito sul tuo blog qualche settimana fa su quello che è successo su Incarnia per quanto riguarda il poligono militare, diciamo, non so come dire, i bombardamenti, come possiamo dire? Di fatto sì. Sì, funziona, ha funzionato così, che io conosco diverse persone, essendo nato, cresciuto e pasciuto in Friuli, diverse persone che vivono da quelle parti. A un certo punto, io poi vabbè mi sono trasferito in Liguria, per cui purtroppo in Friuli non ci sto più, per ragioni di lavoro, insomma l'emigrazione è sempre una cosa che si fa malvolentieri, però generalmente, però vabbè, questa mi chiamano questi amici. In particolare questa compagna che è in gambissima, che sta anche in consiglio comunale di Assauris, mi chiama, mi dice: senti Gregorio, qui è un casino, stanno facendo l'esercitazione gli artiglieri, gli alpini, ci tremano i muri delle case, le finestre, un bordello, siamo incazzati neri. E io ho detto: vabbè, ma insomma, che si tratta? Questi ogni primavera e autunno arrivano, si piazzano e si mettono a bombardare una montagna che sta sopra a Sauris, ma che coinvolge altri quattro comuni, quindi cinque comuni in tutto, e insomma mi chiede una mano. La prima cosa che mi viene in mente è cercare di far uscire dal livello locale la questione, e allora le propongo magari di scrivere un pezzo, cosa che succede, poi Manifesto me lo pubblica, lo metto sul blog. La cosa interessante è che poi da quel pezzo sono uscite anche alcune interrogazioni parlamentari, per quello che possono valere, e per quei 4-5 parlamentari che sono rimasti un minimo, diciamo, coerenti con l'idea pacifista. E niente, diciamo, la questione è un po' uscita così. Di cosa si tratta in concreto? In concreto abbiamo un reparto di artiglieria e alcuni cecchini di due distaccamenti di alpini che, come dicevo, a primavera e in autunno si esercitano a ridosso di questa montagna. Da notare che la montagna in questione è protetta, è una zona di conservazione speciale, quindi ha tutto un protocollo legato alla tutela della fauna, della flora, perdino se possono, non si possono raccogliere certi fiori, certe piante, no? Cioè, ci vuole, come dire, una certa attenzione, e però il paradosso è che nel frattempo arriva l'esercito e di fatto si esercita al bombardamento. Sono stati utilizzati mortai, obici, addirittura questa volta il nome dell'esercitazione invernale è Frozen Arrow. Sì, che fa già ridere abbastanza. Esatto. Sì. Freccia ghiacciata, no? Ma la cosa incredibile è che questi quest'anno, per, diciamo, darsi una, come dire, una patinatura più più popolare, così, hanno prodotto questo video assurdo per cui hanno preso un pezzo dei Jefferson Airplane, noto gruppo insomma antimilitarista, sì, eccetera, esatto, un pezzo remixato, per cui con i bassi tipo tipo disco, boom boom boom, ad ogni boom corrispondeva una spada di mortaio, una botta di cannone. Fantastico. Imbarazzante, anche perché al di là della scelta dei Jefferson Airplane, evidentemente era un po' per scimmiottare i filmoni di Hollywood sul Vietnam, dare questa, certo, per dire, no? Vabbè, insomma, quindi diciamo tutto il contorno era già di per sé paradossale. La cosa in realtà che rimane sul campo, sul tappeto, è che montanari carnici sono incazzati neri, per varie ragioni, perché questa esercitazione, sia quella in primavera che quella in autunno, tardo autunno, chiude, praticamente blocca il paese e le vie di comunicazione per 12 giorni. Teniamo conto che quella è una zona a vocazione turistica, turismo lento, per cui praticamente c'è tutta una parte, un comparto economico che si blocca, che viene bloccato, danneggiato. Sulla montagna di cui stiamo parlando, il Monte Bivera, ci sono varie attività agro-silvopastorali, per cui ci stanno chi porta le mucche nelle malghe, si fa caseificazione, si fa attività boschiva, e anche questo viene bloccato. Poi ci sono addirittura patrimoni comunali, cioè i comuni hanno proprietà boschive che vengono danneggiate come valore economico, perché le schegge di queste granate che si conficcano nel legname di fatto lo rendono praticamente invendibile. Distruggono tutto. Quindi abbiamo un'intera comunità composta da 5 comuni e le popolazioni afferenti che sta roba la sopporta da diversi anni e non la vuole più. No, certo, penso nessuno insomma vorrebbe stare dalle 8 di mattina alle 11 di sera sotto i bombardamenti, no, è una cosa abbastanza ridicola. Sì, infatti, io poi a me frulla la testa, perché io sono un visionario di quelli, però aspirante visionario, considerando lo scenario che ci sta a livello internazionale tra Russia e Ucraina, e laddove è l'Ucraina, insomma, la NATO, e ci si prepara, diciamo, a questo eventuale scenario, secondo te le cose possono essere correlate? Cioè, c'è un come dire, uno sguardo lungo, oppure è solo una questione di che queste esercitazioni si fanno ogni tot e quindi si stanno facendo di nuovo? Cioè, sono miei sogni, come mie visioni, sì. Primavera e autunno. Proprio così, primavera e autunno, perché se fanno. Ne fanno, ma poi fra l'altro l'hanno fatta lì, però anche recentemente al poligono di Sardegna. Quirra, sì, tra poco sentiremo Quirra. Anche un compagno, infatti, che ci farà un aggiornamento anche da giù. Lì è ancora peggio, perché ci si viene ad esercitare tutta la NATO. No, diciamo che la vedi giusta, cioè l'Italia comunque sono 30 anni che è un paese che si è messo sulla strada della belligeranza senza se, senza ma. Uh-huh. Quindi anziché in qualche modo dopo la guerra fredda cogliere la fine della guerra fredda, cogliere la palla al balzo e ripensare completamente, no? una difesa diversa, completamente diversa come concetto, si è rilanciata all'interno della NATO, quindi aumentando le spese militari, trasformando Finmeccanica in Leonardo e quindi in una one company che si occupa esclusivamente di tecnologia militare, dismettendo tutti gli asset civili, anche quelli più sani, penso alla vendita di Ansaldo e di FTA, che erano trasporti e energia, cioè sì. Treni e energia. Abbiamo partecipato l'Italia, dopo gli Stati Uniti, nella NATO, è il paese con diciamo la presenza di soldati sul campo maggiore, quindi dopo gli Stati Uniti nella NATO ci siamo noi, cioè, abbiamo partecipato a tutte, ma proprio tutte le guerre, le occupazioni messe a disposizione dal paniere NATO. Naturalmente questo tipo di attività bellica richiede un addestramento costante, c'ha due livelli, quello tecnologico, per cui bisogna spingere sulla produzione industriale di riferimento, e poi a livello tecnico organizzativo, per stare al passo con gli standard combattenti degli Stati Uniti, naturalmente anche le nostre forze armate devono costantemente mantenersi, come dire, ben allenate. Certo, ma non fanno fatica, insomma, però basta vedere insomma che Cingolani, ex manager di Leonardo, insomma, adesso transazione ecologica, insomma, mi sembra abbastanza chiara la direzione che si vuole prendere. Sì, no, la cosa triste è che il Parlamento non c'è mai stato come in questi ultimi anni un Parlamento così intruppato in questa roba qua. Cioè, praticamente c'è un'unanimità totale. Sì, soldi su soldi che aumentano ogni anno sempre di più. Sì, infatti sì. Adesso poi tu dicevi, parlavi di Ucraina, e cazzo, lì veramente sta, cioè, c'è un problema grosso, perché chiaramente sullo sfondo c'è il gas russo che arriva attraverso il Nord Stream 2, che è questo gasdotto che collega la Russia alla Germania, e agli Stati Uniti non va bene, perché vorrebbero venderci il loro gas liquefatto, e questo giochetto di aumentare la tensione in Ucraina è funzionale a mettere alle strette fondamentalmente la Germania, perché sì, voglio dire, no, gli Stati Uniti lanciano un messaggio chiaro, ma allora stai con noi o stai con i russi? Beh, cioè, la domanda è abbastanza retorica. Va bene, va bene. Non so, ci siamo scordati qualcosa sulla carne, oppure abbiamo detto tutto? Allora, sulla carne io posso dire, l'ultima volta mi sono sentito pochi giorni fa con questa compagna di Sauris, loro a questo giro sono rimasti abbastanza, come dire, passivi, si sono limitati a qualche lamentela, eccetera, però mi dice che anche i sindaci sono un po' sul piede di guerra per i danni ambientali, i danni economici che questa esercitazione puntualmente produce. Mi dicono che a primavera faranno in modo di organizzarsi in maniera più seria, e noi faremo di tutto per aiutarli e per cercare di far uscire il più possibile questa contraddizione. Concludo dicendo che intravedo in questa vicenda la possibilità di piantare contro il Ministero della Difesa una causa risarcitoria, che preveda appunto, come dire, la contabilizzazione di tutti i danni che questa esercitazione sta creando a un'intera comunità. E come si contano i danni di una roba del genere? Beh, alcuni comuni li hanno già quantificati rispetto alle loro proprietà boschive. Il comparto del turismo lento, anche questo è in grado di contabilizzare tutto ciò che si sta perdendo in questi anni, perché poi, vabbè, adesso non mi dilungo sulla questione, però è possibile sicuramente fare una quantificazione di massima. La ragione per cui sarebbe opportuno puntare ad una causa risarcitoria è perché è proprio il terreno su cui il Ministero della Difesa ha già perso 250 volte rispetto ai risarcimenti agli ex militari morti o gravemente ammalati per l'esposizione all'uranio impoverito. Certo. Per cui diciamo che se si punta al penale è sempre molto difficile spuntarla, e lo dimostra anche la recente soluzione di quei cinque generali di Salto di Quirra che sono stati assolti, quando invece se si fosse puntato magari ad un procedimento civile di tipo risarcitorio, l'esito sarebbe potuto essere diverso. È vero che il risarcimento in sé non è una vera, come dire, non risolve la questione della giustizia, no? Sulle responsabilità, assolutamente, eccetera. Certo. Però come dire, è un primo pezzo da cui poi si può partire. L'avvocato che segue le vittime dell'uranio impoverito e che ha già preso a schiaffi appunto più di 250 volte il Ministero della Difesa in tutti i tribunali mi ha detto che quando si perde una causa a livello penale poi è difficile riuscire a, come dire, a tenersi aperta una strada, no? Nei tribunali. Fa anche specie il fatto di doversi ridurre, come dire, ad aspettare giustizia dai tribunali, il fatto che purtroppo le mobilitazioni da sole spesso non bastano. Forse l'unico caso in cui invece hanno funzionato è la Val di Susa, però mi pare che sia come dire, un caso unico purtroppo in questo paese, in tutti i contesti dove c'è contestazione alla presenza dei poligoni e delle basi. Quello che succede è che appunto vengono assolti i responsabili dei disastri ambientali e vengono invece inquisiti i militanti, i compagni e le compagne che si oppongono a questo scempio. In questa fase, ripeto, in cui il Parlamento è tutto intruppato e in cui purtroppo anche la contestazione è ridotta ai minimi storici, forse, ecco, utilizzare tutte le contraddizioni, anche se queste si producono nei tribunali, può essere utile. Sì, infatti. Comunque, guarda, noi ti ringraziamo. Penso sì, che possiamo salutare. C'è una chiamata? Aspetta un attimo, scusami. Sì, forse c'è un compagno che vuole intervenire. Un attimo solo. Ok, ok. Un secondo soltanto. Vuole intervenire. Va bene. Ok, facciamo entrare il compagno che ci ha chiamato. Pronto, ci senti? Sì, ti sento. Ok, Gregorio, tu lo senti? Io in questo momento non sento solo te, Matteo. Ok, vai, parla, parla Gavino. Okay, okay. Ecco, guarda che io volevo dire questo, che già dal 67-68 quella era una zona strategica militare. Adesso senti, Gregorio? Sì. Ok, vai, perfetto, vai, continua. Infatti, quando c'è stata l'invasione della Cecoslovacchia con il 15° gruppo artiglieria missili, dovevamo andare lì a piazzare le rampe per i missili. Poi non ci siamo arrivati perché è andato tutto così, se ci muovevamo i russi erano già a Oporto, che partivano per gli Stati Uniti, ora che ci siamo mossi. Viene da lontano, quindi Sì, viene da molto lontano. Ho capito. Grazie mille per questa testa. Ti parlo di oltre 50 anni fa. Sì, 67-68, insomma. Pazzesco. Sì, sì. Grazie mille per questa testimonianza. Ciao. Ok. Quindi Gregorio? Ci sei ancora, Gregorio? Sì, ci sono. Ci stavamo salutando perché effettivamente. Sì, no, lui voleva intervenire per ricordarci questa compagno, cosa qua, certo. Il compagno che ha chiamato. Benissimo. Va bene, quindi noi ci salutiamo. Sì. Ci sentiamo sicuramente prestissimo, insomma, come ormai è quasi tradizione. Sì, Gregorio. Gli rubiamo sempre più tempo di quello che gli promettiamo. Però, insomma, grazie, Gregorio.